Capitolo 25. Siamo arrivati a Londra l'8 aprile e l'8 di maggio sono rientrata qui, secondo il volere di Arthur e contro il mio, dato che lui è rimasto lì. Sarei stata ben contenta di tornare a casa se anche lui fosse venuto con me, perché in città mi ha trascinato in tali e tante serate fuori che mi sentivo esausta. Evidentemente aveva desiderio di presentarmi ai suoi amici e conoscenti, a tutti anzi, e ogni occasione era buona per portarmi in giro. È stato bello sentirmi tanto considerata, addirittura una ragione di vanto per lui, ma mi è costato caro. Innanzitutto, per farlo contento, ho dovuto rinunciare ai miei gusti ben consolidati in fatto di abbigliamento, semplice, scuro e modesto. Ho dovuto indossare una gran quantità di gioielli e imbellettarmi come una farfallina, malgrado fossi seriamente intenzionata a non farlo. E non si è trattato di un sacrificio irrilevante. Inoltre ero costantemente presa dallo sforzo di andare incontro alle sue attese ed essere degna della sua fiducia, preoccupata di poterlo deludere commettendo uno sbaglio, un gesto che rivelasse la mia scarsa confidenza con gli usi della società, in particolar modo in quanto padrona di casa. Come ho già detto, poi, ero davvero stanca di quella continua confusione, dei ritmi veloci, così distanti da ciò a cui ero abituata. Fatto sta che alla fine Arthur capì che la vita di città non faceva per me e che sarei dovuta tornare al più presto a Grassdale. Gli risposi ridendo che la faccenda non era grave a tal punto, ma che sarei rientrata volentieri se anche lui fosse stato pronto a venire con me. Mi disse che gli servivano ancora 2 settimane per concludere alcuni affari. Ah, resto qui con te, gli dissi. Oh, impossibile, Helen, se resti qui dovrò occuparmi di te e tralasciare il resto. Non lo permetterei mai, sapendo che hai degli affari di cui occuparti, sarò io stessa a insistere perché tu lo faccia, anche lasciandomi sola. Io potrò andarmene a cavallo nel parco, come faccio sempre, e poi non resterai mica via tutto il giorno. Potremmo comunque stare insieme ai pasti e la sera. Meglio che essere tanto lontani e non incontrarsi affatto. Amore mio, non riuscirei a concentrarmi sugli affari sapendoti qui da sola. Ma non mi sentirò trascurata. Come potrei sapendo che hai degli affari da sbrigare? Se tu me l'avessi detto prima, anzi già saresti a buon punto. Invece adesso dovrai sforzarti di recuperare il tempo che hai perso. Dimmi di cosa si tratta, ti aiuterò a organizzarti e non ti ostacolerò. No, Helen, insisté. Ho bisogno di sentirmi sereno sapendoti a casa al sicuro, anche se sarai lontana. Sei provata, hai lo sguardo velato e il rosa ti ha abbandonato le guance. Sì, la troppa mondanità mi ha stancato. No, fidati di me, è Londra. Tu hai bisogno dell'aria pulita della tua campagna e in capo a 2 giorni sarai di nuovo lì. Non dimenticare le tue condizioni, Helen, mio tesoro. Dalla tua salute dipende anche la salute, se non la vita, della nostra futura speranza. Insomma, hai deciso di liberarti di me. Sì, ti accompagnerò a Grassdale e poi tornerò qui e resterò lontano una settimana, forse 2. Se le cose stanno così, allora tornerò da sola. Non hai motivo di accompagnarmi facendo avanti e indietro. Resta qui. Il pensiero di lasciarmi partire da sola non gli andava a genio. Devi giudicarmi una creatura davvero debole se non pensi che sia in grado di viaggiare un centinaio di miglia in carrozza con il lacchè e la cameriera. Se verrai con me, allora farò di tutto per non farti ripartire. Ma ora dimmi, Arthur, di quali affari devi occuparti e perché non me ne hai mai parlato prima d'ora? Oh, si tratta di una cosa che devo discutere con il mio avvocato, disse, raccontandomi velocemente di un terreno che voleva vendere per svincolare alcune ipoteche sulla casa. Tuttavia il racconto era confuso, oppure io particolarmente ottusa, dato che non riuscivo proprio a capire come una simile sciocchezza potesse trattenerlo addirittura per 2 settimane. Tanto meno sono in grado di capire ora come mai ci stia mettendo un mese, perché nel frattempo è passato un mese e non è ancora tornato. Mi scrive sempre che ci rivedremo dopo pochi giorni, ma mi mente, o mente a se stesso. Adduce giustificazioni confuse e sono sicura che abbia ritrovato i suoi vecchi amici. Ma perché? Perché l'ho lasciato? Quanto vorrei che tornasse. 29 giugno. Ancora niente. Sono giorni che aspetto che mi scriva. Mi scrive sempre lettere molto tenere. Se paroline dolci e nomignoli affettuosi possono essere definiti così, ma brevi e piene di scuse e nuove promesse. Tuttavia le aspetto comunque con trepidazione, le apro e le leggo con foga, quelle brevi note scritte di fretta in risposta alle lunghe missive che gli mando io. È davvero spietato a lasciarmi da sola così tanto quando sa bene che non ho nessuno con cui parlare a parte Rachel. Gli unici vicini che abbiamo sono gli Hargrave. Vedo la loro casa in lontananza dalle finestre e sono stata felice di scoprire che Millicent abitava lì. Eppure non posso godere della sua compagnia perché è ancora a Londra con sua madre. In casa loro non c'è nessuno, a parte la giovane Esther e la sua governante francese. Walter è quasi sempre via. Finalmente ho avuto modo di conoscerlo a Londra, il perfettissimo modello d'uomo, e non mi è parso degno delle lodi che la madre e la sorella spendono per lui. Devo ammettere però che si è mostrato più affabile di Lord Loborough, più nobile del signor Grimsby e più raffinato ed educato del signor Hattersley. Un altro degli amici che Arthur mi ha presentato mentre eravamo in città. Arthur, ma perché non torni e perché non scrivi? Sei stato tu a preoccuparti della mia salute e come puoi pensare che io stia bene in forze passando il tempo qui da sola, in preda all'ansia, un giorno dopo l'altro? Ti meriteresti di trovarmi avvizzita al tuo ritorno. Ecco, potrei chiedere agli zii o a mio fratello di venire a trovarmi, ma non voglio lagnarmi con loro della mia solitudine, che poi è la cosa che mi angoscia di meno, a dire il vero. Cosa starà facendo? Perché non torna? Queste sono le domande che continuo a ripetermi e che mi angustiano insieme ai terribili pensieri che ne conseguono. 3 luglio. La mia ultima penosa lettera lo ha convinto a rispondermi, alla fine. Non so davvero cosa pensare. Si diverte a prendermi in giro perché sono arrabbiata e scostante, dicendo che non ho la più pallida idea di quali e quanti siano gli affari che lo stanno trattenendo e che comunque tornerà di certo entro la prossima settimana, sebbene non possa ancora stabilire quando di preciso. Mi incoraggia a coltivare la pazienza che, dice, è la prima delle virtù di una donna e mi ricorda che la lontananza rafforza l'amore. Quindi mi esorta a consolarmi al pensiero che quando tornerà mi amerà ancora più di prima. Nel frattempo mi chiede di continuare a scrivergli spesso, dato che, anche se a volte è troppo distratto o pigro per rispondermi subito, gli piace molto ricevere mie notizie ogni giorno. Dice che se davvero smetterò di scrivergli, come ho minacciato di fare per punirlo, si arrabbierà al punto da cercare di dimenticarmi. Poi mi ha scritto anche qualcosa riguardo la povera Millicent. La tua amichetta Millicent Hargrave presto seguirà il tuo esempio, sposando un mio amico e sottomettendosi al giogo del matrimonio. Hattersley ancora non ha tenuto fede alla minaccia di convolare a nozze con la prima che gli avesse messo gli occhi addosso, ma vuole comunque sposarsi entro la fine dell'anno. Voglio una persona che mi assecondi in tutto, mi ha detto, non come vostra moglie, che è una donna affascinante, ma dalla volontà sin troppo spiccata, che rischia di rivelarsi bisbetica in certe circostanze. Quanto ha ragione, ho pensato io senza dirglielo. Mi serve una brava persona, che mi lasci fare quello che voglio, che mi lasci andare dove mi pare senza lamentarsi mai. Detesto i rimproveri e le ripicche. Ebbene, gli ho detto, conosco la persona che fa il caso vostro. Se non vi interessano i soldi, Millicent, la sorella di Hargrave. Così ha voluto che gliela presentassi, dicendomi di avere già abbastanza ricchezze di suo e che ne avrà ancora quando suo padre passerà a miglior vita. Ed ecco che ho sistemato al meglio entrambi. Oh, povera Millicent! Ma del resto non credo proprio che accetterebbe mai la proposta di una persona tanto distante dal suo modello di uomo da amare e onorare. 5 luglio. Come mi sbagliavo! Millicent mi ha scritto proprio stamattina comunicandomi di essere già fidanzata e che si sposerà entro la fine del mese. Helen, non so cosa dire né cosa pensare. Sposare il signor Hattersley vuol dire amarlo, ma per quanto mi sforzi io proprio non ci riesco. La cosa peggiore è che lo preferisco quando mi sta lontano. È brusco, prepotente, l'idea di sposarlo mi fa paura. Vi chiederete perché l'ho accettato. Il punto è che io non avevo affatto l'impressione di averlo accettato, mentre mia madre crede di sì e anche lui. Non volevo accettarlo, ma neppure rifiutarlo troppo bruscamente, dato che mia madre sembrava favorevole alla sua proposta. Gli ho dato quindi una risposta vaga, più negativa che positiva. A quel punto mia madre mi ha detto che invece la mia risposta poteva essere letta come una risposta affermativa e che tirandomi indietro sarei passata per una ragazza troppo volubile. A quel punto mi sono sentita impaurita e confusa, e non so più cosa ho detto. La volta successiva, il signor Hattersley mi ha usato la confidenza che si usa a una promessa sposa e ha subito iniziato a prendere accordi con mia madre. Non ho trovato il coraggio di tirarmi indietro in quel momento, quindi come posso pensare di farlo adesso? Farei la figura della matta? E mia madre poi è talmente felice, è convinta di avermi sistemato per il meglio e non la voglio deludere. Ogni tanto provo a muovere qualche obiezione. Le dico cosa provo, ma non avete idea di cosa mi risponde. Hattersley è figlio di un banchiere, come sapete, Esther e io non possediamo nulla. Walter dispone di poco e nostra madre desidera vederci sposati con qualcuno di ricco, sposati bene. Certo, non corrisponde alla mia idea di essere sposata bene, ma so che lei è in buona fede. Mi dice che togliersi questo pensiero sarà un grande sollievo per lei e che è la scelta migliore sia per me che per tutta la famiglia. Anche Walter è concorde e ha liquidato le mie esitazioni come delle sciocchezze. Anche secondo voi sono sciocchezze, Helen? Se solo pensassi di poterlo amare, ma non lo penso. Niente in lui suscita la mia ammirazione o la possibilità di un affetto. È l'esatto opposto di quel che per me dovrebbe essere un marito. Scrivetemi, ditemi cosa pensate e incoraggiatemi, vi prego, però di non cercare di farmi cambiare idea perché ormai il mio destino è segnato e i preparativi per il grande giorno già cominciati. Non ditemi nulla contro di lui, voglio pensare solo per il meglio e seppure io stessa ne ho parlato male, desidero che sia l'ultima volta. Non dirò mai più nulla contro di lui, e anzi, chiunque oserà esprimersi in modo offensivo nei confronti di quest'uomo che ho promesso di amare e onorare avrà la mia massima disapprovazione. In fondo, non è poi tanto dissimile dal signor Huntington, forse è anche migliore. E voi lo amate e sembrate contenta? Forse anche io posso riuscirci. Ditemi, se potete, che il signor Hattersley è migliore di quanto creda, che è un brav'uomo, generoso, dignitoso. Un diamante perfetto, solo allo stato grezzo. In fondo, credo che potrebbe essere così. Io non lo conosco abbastanza, ma solo a un livello superficiale, che temo sia la sua parte peggiore. E poi la lettera si chiude con un: a presto, cara Helen. Attendo con ansia i vostri consigli e che siano tutti positivi, mi raccomando. Ah, povera Millicent! Cosa posso dirle per confortarla? Quale consiglio potrei mai darle se non quello di prendere posizione in modo saldo, anche se le costerebbe l'indignazione da parte della madre, del fratello e del promesso sposo, ma le risparmierebbe invece una vita di rimpianti e di infelicità? Sabato 13 luglio. Ecco che la settimana è finita e lui non è tornato. L'estate sta volgendo al termine senza pace per me né beneficio per lui. Avevo tanto atteso questa stagione, credendo che l'avremmo passata insieme, che sarebbe stato il momento ideale per impegnarmi a nobilitare il suo spirito e raffinare i suoi gusti, affinché finisse anche lui per godere di questa natura deliziosa, della pace, dell'amore celeste. E invece, quando la sera vedo il disco rosso del sole tramontare dietro le colline, mi dico che un'altra giornata è trascorsa senza di lui. Quando la mattina mi sveglio sentendo svolazzare i passeri e cinguettare le rondini che nutrono i loro piccoli, coi loro corpicini pieni di vitalità e di gioia. Apro la finestra sul meraviglioso paesaggio che si apre qui davanti, bagnato dalla rugiada e dal sole. Respiro a pieni polmoni l'aria balsamica e spesso disonoro questa meraviglia versando calde lacrime al pensiero che lui non sia qui a godere di questa freschezza. Quando vado a camminare nel bosco, quando vedo allegri fiorellini selvatici o siedo all'ombra dei nostri splendidi frassini accanto alla riva del lago, coi rami che ondeggiano e il vento che sussurra tra le tenere foglie, con le orecchie piene di questi incantevoli suoni e del lieve brusio degli insetti, mentre osservo le placide acque del lago, circondato dagli alberi, alcuni piegati come a baciarlo, altri più dritti e grandi, e tutti con i loro bracci tesi sulla superficie, fedelmente rispecchiati dalle acque limpide, solo talvolta increspate da qualche insetto o da una lieve folata di vento che rompe quell'immagine in tanti piccoli frammenti tremanti. Anche in quei momenti non trovo piacere. Tale è il dispiacere che lui non sia lì con me. Maggiore è la gioia di quel che potremmo condividere e maggiore è la sofferenza per la nostra lontananza. Nostra, sì, poiché anche lui sicuramente soffre, anche se non lo sa. Maggiore è il piacere a cui sono chiamati i miei sensi, e maggiore è la pena del mio cuore che li tiene prigioniero con sé, nella polverosa confusione di Londra, magari al chiuso del suo orribile club. E quando la sera entro in camera mia da sola e guardo la luna d'estate, dolce reggente del cielo e alta in quella volta nero-azzurra che getta la sua luce argentata sul giardino, il bosco, il lago, così placida e divina, penso: e lui dov'è in questo momento? Cosa sta facendo? Non vede questa meraviglia? E forse è con i suoi amici a far baldorio, magari? Oh no! Dio, ti prego, aiutami, è troppo per me. 23 luglio. È tornato, grazie al cielo. Certo, è molto cambiato, è tutto rosso in viso, ha la febbre, è indolente, sembra stranamente meno bello, meno sano, meno vivace. Non ho avuto il coraggio di rimproverarlo, né a parole né con lo sguardo, e di sicuro si vergogna, e qualsiasi domanda sarebbe troppo penosa sia per lui che per me. Trovarmi così accogliente gli fa piacere, lo commuove quasi, mi pare. È contento di essere tornato a casa, dice. E il cielo sa quanto sia contenta io di averlo di nuovo qui, anche così ridotto. Se ne sta sdraiato quasi tutto il giorno sul divano, mentre io suono e canto per lui. Scrivo le lettere che lui mi detta, gli porto quel che mi chiede, gli leggo dei libri, gli parlo, oppure resto accanto a lui ad accarezzarlo. Non lo merita, lo so, ma per questa volta voglio perdonarlo. Intendo condurlo alla virtù tramite la vergogna. Spero di riuscirci e che non mi lasci mai più. Le mie premure gli fanno piacere. Mi è riconoscente, è contento di avermi vicino e per quanto è intrattabile e scontroso con la servitù e con i cani, con me è gentile. Non so come si comporterebbe se non lo accontentassi in tutto o se dicessi o facessi cose che possano innervosirlo, per quanto arbitrariamente, però vorrei che se le meritasse queste premure. L'altra sera avevo la sua testa sulle gambe e gli accarezzavo i riccioli. Quando questo stesso pensiero mi ha riempito gli occhi di lacrime, cosa che mi succede spesso, una di queste lacrime gli è caduta sul viso e lui mi ha guardato e ha sorriso, non con aria offensiva. Helen, cara, perché piangi? Mi ha chiesto. Lo sai che ti amo. Così dicendo si è premuto la mia mano sulle labbra accaldate dalla febbre. Cosa desideri di più? Che amassi te stesso, tanto quanto ti amo io, Arthur, così profondamente e fedelmente. Oh, sarebbe difficile, ha risposto, stringendomi la mano. Non sono sicura che abbia capito bene quello che gli ho detto. Poi ha sorriso, ha chiuso gli occhi e si è messo a dormire. A vederlo così pareva un bambino, candido e sereno. Guardandolo dormire, tanto profondamente ho sentito il cuore gonfiarsi e le lacrime scendere copiose. 24 agosto. Arthur è tornato in sé, è di nuovo allegro e sfrenato, irrequieto e difficile da accontentare come un bambino viziato. E come al solito irascibile quando fuori piove e deve rimanere in casa. Mi piacerebbe che avesse qualcosa da fare, qualcosa di cui occuparsi, un lavoro che lo tenesse impegnato, con la testa o con le mani per qualche ora al giorno, distraendolo dal pensiero fisso di doversi a tutti i costi divertire. Potrebbe fare il proprietario terriero, occuparsi della fattoria, ma non ne è capace, né gliene importerebbe. Potrebbe studiare, imparare a disegnare o anche a suonare, giacché la musica gli piace così tanto. A volte insisto perché inizi a suonare il pianoforte, ma è troppo pigro e la sola idea di impegnarsi per superare qualche difficoltà è tanto distante da lui quanto quella di trovare una misura nel soddisfare tutti i suoi appetiti. Ecco quali sono le due cose che lo porteranno alla rovina. E per entrambe ritengo suo padre così severo eppure di pessimo esempio e sua madre che l'ha accontentato in tutto direttamente responsabili. Se sarò madre mi batterò contro il crimine dell'indulgenza illimitata. Non riuscirei a essere meno severa e chiamarla in modo diverso, osservando quali conseguenze porta con sé. Grazie al cielo, tra poco si aprirà la stagione della caccia e potrà passare il tempo a inseguire le pernici e i fagiani. Purtroppo non abbiamo galli cedroni qui, altrimenti già potrebbe darsi a questa occupazione, invece di passare le giornate sotto la caccia a tirare le orecchie al povero Dash. A cacciare da solo si annoia, però, Quindi vorrebbe la compagnia di un paio di amici. A patto che siano persone per bene, gli ho detto, perché la parola amico pronunciata da lui mi mette i brividi. Lo so che sono stati proprio i suoi amici a convincerlo a restare a Londra tanto a lungo. Tra l'altro, da alcune cose cui ha vagamente accennato, sono abbastanza sicura che abbia mostrato loro le mie lettere per vantarsi di quanto sua moglie fosse partecipe dei suoi interessi e quanto soffrisse la sua assenza. Sicuramente l'avranno convinto a fermarsi ogni volta per una settimana in più, con la scusa di dover dimostrare di non essere soggiogato alla moglie, o magari per far vedere loro quanto poteva tirare la corda senza perdere la devozione della sua innamorata. Non mi piace pensarlo, ma ritengo che possa essere andata così. Uno dei due potrebbe essere Lord Loboraf, però dovremmo invitare anche la sua sposa, la nostra comune amica Annabella. Non hai paura di lei, vero Helen? Mi ha chiesto con un sorriso malizioso. Ovviamente no, non vedo perché dovrei, gli ho risposto. E poi chi altro? Hargrave sarebbe contento, perché anche se abita così vicino non ha abbastanza terra per andare a caccia. Sai bene quanto sia un bravo uomo, sicuramente adatto alla compagnia delle signore. E infine Grimsby, che definirei una persona tranquilla. E non penso tu abbia qualcosa da ridire su di lui. Lo detesto. Ma se desideri invitarlo, farò del mio meglio per sopportarlo. Ma i tuoi non sono che pregiudizi, ah, volubili sentimenti femminili. A dire il vero, sono sentimenti fondati. Devi dirmi altro? No, direi di no. Hattersley sarà troppo impegnato con la sua novella sposa per pensare ai cani e ai fucili. A questo proposito, mi viene in mente ora che in effetti Millicent mi ha scritto spesso dopo il matrimonio, affermando di aver fatto pace con il suo destino, infine. Dice di aver scoperto molte qualità apprezzabili in suo marito, alcune delle quali non riuscirebbe di certo a vederle se avesse occhi più imparziali, neppure sforzandosi fino alle lacrime. Si è abituata ai suoi toni bruschi e non ha più alcuna difficoltà ad amarlo e onorarlo come una brava moglie. Anzi, mi prega di distruggere quella lettera in cui aveva parlato così male di lui senza conoscerlo ancora tanto a fondo. Insomma, posso ancora sperare di saperla felice, anche se solo grazie al suo buon carattere, comunque. Perché se avesse finito per credersi vittima del destino o dei piani pragmatici di sua madre, di certo sarebbe stata infelice. Allo stesso modo, se non si fosse sentita in dovere di impegnarsi in ogni modo per amare suo marito, l'avrebbe odiato per sempre.